nell'astrologia, insomma, non vuol dire che questa sia una prova poi di efficacia. E come tutti i venerdì, la parola passa alla Sora Cesira. Qui c'è scritto un grammo di granuli di Anas Barbarie Hepatis Cortis Extractum. Scusa, ma che è? Ma non ti preoccupare, tu tranquilla. Io lo prendo. Prendi, sicuro. Fidati. Sicuro. Vabbè. Mi trangugio tubetti verdi per gli attacchi di cefalea, ma di cosa c'è nei granulini? Non c'ho manco una mezza idea. È successo che stavo a pezzi e per far contento il ragazzo mio, alle cure tradizionali ho accettato di dire addio. Mo purtroppo è arrivato un libro che c'ha un titolo che sconforta. Dice che assumo acqua fresca, anzi ho culo se non son morta. Così aspirine io nel dubbio comprerò, soppiatto assumerò, di antistamine scoppierò. Coi granulini il couscous cucinerò. E allora con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena di fare, vedere, leggere, ascoltare. Eccoci, anno nuovo. Dopo i bilanci arriva il momento dei buoni propositi, il cui corollario spesso è l'autoflagellazione per manifesta e manifestata incapacità di mantenerli. Ed è uno stato che si protrae di solito fin dopo l'estate, che è l'altra stagione dei nuovi buonissimi propositi. Adesso però il magico cerchio rischia di rompersi grazie alle nuove applicazioni motivatrici, portatrici sane di forza di volontà. Una è Strides, mantiene sotto controllo praticamente tutto, dai soldi spesi ai passi percorsi durante la giornata all'acqua bevuta. Inserisci i tuoi obiettivi personali e le notifiche ti avvisano quando li raggiungi. In caso contrario, vieni richiamato. CoachMe sfrutta i social, così gli amici diventano tifosi, consiglieri, grilli parlanti. Se invece le amicizie volessi risparmiarli, c'è Habitlist, che monitora le tue abitudini e ti indica dove sprechi più tempo ed energie. Se invece vuoi smettere di fumare, c'è Quit, dove avanzi di livello come in un videogioco, mentre le statistiche ti mostrano i benefici di salute ed economici. Ma poi per risparmiare c'è Tolsh. Di nuovo inserisci l'obiettivo e l'applicazione traccia le tue spese facendoti notare se sei in linea o meno con i tuoi obiettivi. Quelle per imparare le lingue, poi quelli per fare sport, per dimagrire. Insomma, ogni buon proposito ha la sua app per mantenerlo. In pratica, se hai fatto la classica lista, tra notifiche e richiami non hai più scampo. Ma poi, tutti questi buoni propositi a cosa dovrebbero servire? Cosa cerchi qui in America? Voglio essere felice. Essere felice? Perché la felicità per me è questa. Stare insieme a te. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità. Perché, guarda lì, Nicolò, quella è la felicità, papà! Ecco, ma allora, quali sono i buoni propositi per la felicità? In attesa dell'app che mi insegni cosa desiderare, ma chissà, forse c'è già anche quella, un'amica mi ha segnalato un TED speech molto interessante che parla dell'Harvard Study of Adult Development, ovvero il più lungo studio mai condotto sullo sviluppo degli adulti e sul segreto di una vita lunga e felice. 75 anni fa ad Harvard, infatti, sono stati selezionati due gruppi di persone e sono state seguite lungo il percorso della loro vita. Ecco cosa è emerso secondo Robert Waldinger, il direttore, il quarto, dello studio. So what have we learned? What are the lessons that come? Quindi cosa abbiamo imparato? Quali sono le lezioni che vengono da decine di migliaia di pagine di informazioni che abbiamo ottenuto da queste vite? Bene, le lezioni non riguardano la ricchezza o la fama, o il duro lavoro. Il messaggio più chiaro che otteniamo da questi 75 anni di studi è: le buone relazioni nei rapporti ci mantengono più felici e più longevi. Le buone relazioni. E al riguardo sembra che le scelte di vita fatte da adulti siano le spie migliori per prevedere quanto a lungo vivremo. Quindi 75 anni di studio per tornare a Epicuro e alla sua lettera sulla felicità. Comunque mi è tornato in mente un libro molto bello dal titolo ancora più bello, che poi è un verso di Borges, Felici i felici, di Yasmina Reza, pubblicato da Adelphi nel 2013. Relazioni umane, tentativi di felicità, qualche successo e moltissimi fallimenti. Felici i felici, una bellissima lettura e un ottimo proposito. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao, buongiorno e tanti auguri di buon anno a tutti gli ascoltatori di Donatella e buon anno anche a te. E grazie Donatella, anche a lei. Prego. Senta, ma a proposito, lei ha fatto dei buoni propositi per questo 2016? Guarda, uno proprio buono buono l'ho fatto adesso. E che bello, mi dica. È che non mi fate più vedere questi film. Ecco, ma che vi siete impazziti? Ma perché? Mi fate vedere i film con tutto il sangue e le teste mozzate, la gente che parla strano. Ma che vi siete bevuti, oh? Donatella, scusi, ma lei sta vedendo Macbeth, che è una delle tragedie più cruente di Shakespeare. Sì? Shakespeare. Vabbè, comunque ormai sto qua. Quindi ti racconto che ci sta questo tipo che va in guerra. Il suo re, ed è bravissimo. Tipo che si tipo Rambo. La faccia con i colori, capito? Sì. Si nasconde e prende a spadate tutti i nemici. Però a un certo punto incontra tre streghe stronze e gli dicono che deve diventare il nuovo re. Allora lui si parla con la moglie, però lei gli dice che è proprio una bella idea, capito? Vuoi fare regina quella. Capito. Però visto che un re già c'è, e lei gli dice: oh, però questo ce ne dici se lo ammazzi e ti ci metti tu al suo posto? E ora io sento il futuro. Salve, tu che sei re. Mio carissimo amore, Duncan arriva stasera. Appare come il fiore innocente, ma sì, la serpe che vi si cela sotto. Lo senti come parlano strano? Comunque, lei, perché magari tu non capisci, te lo spiego, voleva dirgli che deve fare tutto il caruccio e poi zà! Zà, la tragedia del potere, Donatella. Ci sta un colpo come Anna, ci sta sotto sa danna. Prego? È un proverbio del paese di mia suocera, che è molto saggia. Lui diventa re e comanda, sì. Però non si fida più di nessuno. Cioè, presente quando tu stai per strada, no? E dici a uno: oh, che ti guardi? Con me, quello proprio un pacco che stavo a calcolare. Senta, Donatella, ma degli attori che mi dice? Che ti dico? Che lì c'è una parte interessante. Le piace Fassbender? Sì. È il protagonista? Sì, sì, sì, quello che fa il re. Quello è lo stesso attore con la barba, carino, che ha fatto quel film che stava sempre con il pisello in mano, te lo ricordi? Shame, Fassbender, appunto. Sì, sì, sì. Però qui, te lo dico subito, non c'ha il pisello in mano, c'ha la corona, che però, insomma, non è la stessa cosa. Beh no, effettivamente non è la stessa cosa. E poi c'è Marillion Cotillion. Facciamo così, ma vale la pena vedere Macbeth di Justin Kurzel con Michael Fassbender e Marillion Cotillard? Se lo dico, c'è un sacco di sangue, assecchiate. E quindi dipende solo se sei impressionista col sangue. Grazie, capito? Donatella. Ma tu sei impressionista o no col sangue? Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Pietrangelo, ma dove andiamo oggi? Guarda dove mi trovo. Lo vedi? Ti vedo in difficoltà. Comunque riesco ad affrontare i marosi perché sono sulla nave di Teseo. Ah, allora stai bene? Sì, sì, sì, solida nave di Teseo. E siccome ho visto all'orizzonte un'isola, non so se deserto o meno, popolata, dove c'è Antonio Manzini, che è il creatore del commissario Rocco Schiavone, che ha scritto adesso una novella satirica sull'orlo del precipizio, pubblicato ovviamente da Sellerio, e magari, chissà, forse lo porto con me sulla nave di Teseo. Intanto buongiorno, buongiorno Antonio. Buongiorno, no, ma io sto bene su quest'isola, non mi trovo malissimo, devo dire. È abitata? No, ci sono io e basta, altrimenti non mi troverei così bene. Ah, ecco. Antonio, tu hai scritto questa novella satirica in cui Pietro Volpe, uno dei più grandi scrittori italiani, sta per pubblicare il suo nuovo romanzo, che è il suo capolavoro. Ma tutti sì. i grandi editori sono raggruppati sotto un unico marchio, il gruppo Sigma. Ecco, che sì. succede, Manzini? Niente, succede che Bardi, Gozzi e Malossi, che sono i due, le tre grandi case editrici del paese, si uniscono perché questa Sigma, che è una cordata di non meglio identificati di proprietari, quindi investitori, si comprano tutte queste case editrici e diventano un pochino diventano la casa editrice più grande del paese, diciamo quasi un monopolio. E cominciano i guai per il nostro, non solo per il nostro scrittore, ma ecco, qualche piccolo riferimento alla realtà, qualche perché? Un po'... No, così per dire, è Mondazzoli. No. No, assolutamente no, no. È un racconto lungo distopico che immaginario, mi sono divertito a immaginare una realtà orwelliana, diciamo. Comunque nel libro c'è una riscrittura molto divertente dei classici. Che succede, per esempio, con Guerra e Pace? Guerra e Pace tolgono guerra, lasciano solo pace. Via Waterloo e tutto l'inizio in francese. E con I Promessi Sposi? I Promessi Sposi lo riscrivono un po' per avvicinarlo ai giovani. I bravi diventano tipo i coatti, no? Perché sì, ci hanno stufato con questo linguaggio aulico. Ma cos'è sta roba dei Promessi Sposi? Questi libroni maledetti non servono a nulla. Ma come una meraviglia, I Promessi Sposi. È uno dei libri preferiti di Pietrangelo, assoluto. Lo so, anche mio. Ma io me ne torno sulla nave di Teseo e quindi veleggio verso le nostalgie, la saluto. Grazie Antonio Manzini. Ma grazie a voi. Sa benedica. Voi. Sa benedica sull'orlo del precipizio, pubblicato da Sellerio. Mi raccomando, vada piano con la nave. Dei remi facemmo ali al folle volo. Mia bella signorina che ascolti lassù. So, chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. E adesso musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Ciao Alessandra. Siamo qui noi soli, come ogni sera. Gianluca Giblone, baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto, tenori. Ovvero meglio conosciuti come Il Volo. E diamogli un nome e un cognome a questi ragazzi. Sempre li chiamiamo Il Volo, ma non si sanno i nomi di questi ragazzi molto molto bravi, che sono i nuovi ambasciatori della musica italiana nel mondo. Ecco, vale proprio la pena di ascoltarli perché sono bravissimi. Il primo appuntamento utile è domani 9 gennaio all'Arena Spettacoli di Padova. Ma non ti viene voglia di ballare, Alessandra? Dillo. Un po' sì. Ecco, sì, infatti, sì, sì. Io vi sfido a vedere questo gruppo da seduti. Sono gli Original USA Gospel Singer. Pensa, Alessandra, che si sono esibiti nella loro carriera davanti a oltre 1 milione di spettatori. Quindi potete assolutamente mancarli. Insomma, vi sfidiamo ad ascoltarli da seduti, come detto, dopodomani 10 gennaio al Kursaal di Merano. Due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Abbiamo iniziato con il classico, con Il Volo, e continuiamo con il classico, Alessandro. Classicissimo. Senti che bel tappeto musicale. Dunque, popolare e amatissimo, questo è Giuseppe Verdi, che è un'icona della stagione eroica del Risorgimento italiano. Musicista e patriota, il suo è un contributo nell'unico nel suo genere nella costruzione di quell'Italia che abbiamo ricevuto in eredità. Una storia che vi stupirà e vi divertirà. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.